Capitolo 8. Per mesi, prima del mio ritorno in Inghilterra dal ciclo di conferenze in America, la situazione nell'Hustler si era fatta sempre più seria. Sir Edward Curzon e i suoi seguaci avevano dichiarato che se a Dublino fosse stato istituito un governo home rule, loro avrebbero creato, legge o non legge, un governo rivale indipendente nell'Ulster. Si sapeva ormai che armi e munizioni erano state spedite in Irlanda e che gli uomini e anche le donne, se per questo, si stavano addestrando e preparando alla guerra civile. La WSPU avvicinò Sir Edward Carson e gli chiese se il governo dell'Ulster, di cui parlava, avrebbe concesso il diritto di voto alle donne. Dichiarammo con franchezza che qualora il voto fosse stato concesso unicamente agli uomini, ci saremmo comportate con Re Carson e i suoi colleghi esattamente come avevamo fatto con il governo britannico centralizzato a Westminster. Sir Edward Carson ci promise inizialmente che il governo ribelle dell'Ulster, se fosse nato, avrebbe concesso il voto alle donne dell'Ulster. Tale impegno fu in seguito ripudiato e al principio dei mesi invernali del 1914 il nostro movimento fece la sua apparizione nell'Ulster. Era stato attivo in Scozia per un certo periodo e adesso le detenute suffragette venivano sottoposte all'alimentazione forzata in quel paese, così come in Inghilterra. La risposta a questo fu ovviamente una militanza ancora più energica. L'antica chiesa scozzese di White Kirk, reliquia dell'epoca anteriore alla Riforma, fu distrutta dal fuoco. Anche diverse case di campagna disabitate furono incendiate. Fu in questo frangente, nel febbraio 1914, che presi impegni per una serie di riunioni fuori Londra, la prima delle quali si doveva tenere a Glasgow, alla St. Andrew's Hall, che può contenere diverse migliaia di persone. Affinché potessi essere libera la sera della riunione, lasciai Londra in macchina all'insaputa della polizia. Malgrado gli sforzi fatti per catturarmi, riuscii a raggiungere Glasgow e, salendo sul palco della St. Andrew's Hall, mi trovai faccia a faccia con un uditorio enorme e manifestamente solidale. Poiché si sospettava che la polizia potesse fare irruzione sul palco, era stato approntato un piano di resistenza e le guardie del corpo erano presenti in massa. Il mio discorso fu tra i più brevi che abbia mai fatto. Ho mantenuto la promessa e, a dispetto del governo di Sua Maestà, stasera sono qui. Poche persone in questo uditorio, poche persone in questo paese sanno quanti soldi pubblici vengono spesi per far tacere le donne. Ma la perspicacia e l'ingegno delle donne stanno prevalendo sul potere e sul denaro del governo britannico. È una buona cosa che stasera si faccia questa riunione, perché oggi è un giorno memorabile negli annali del Regno Unito, della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Oggi alla Camera dei Comuni ho assistito al trionfo della militanza, la militanza degli uomini, e stasera spero di far capire alle persone qui presenti che se si fa distinzione tra la militanza in Ulster e la militanza delle donne, questo andrà a tutto vantaggio delle donne. Il grande impegno del movimento delle donne è di dimostrare che noi siamo esseri umani al pari degli uomini e ogni fase della nostra lotta è tesa a ficcare questa difficile lezione in testa agli uomini e in particolare in testa ai politici. Stasera, per questa assemblea, chiedo di avere il supporto di un testo scritto. I testi scritti sono generalmente banditi dai pulpiti, ma mi perdonerete se stasera ne leggo uno. Il mio testo dice: uguale giustizia per uomini e donne, uguale giustizia politica, uguale giustizia legale, uguale giustizia professionale e uguale giustizia sociale. Stasera voglio farvi capire nel modo più chiaro e conciso possibile che se è legittimo combattere per un'ordinaria e generica giustizia imparziale, allora le donne sono ampiamente giustificate a ribellarsi e a fare la rivoluzione. Anzi, lo sono ancor più di qualsiasi uomo in tutta la storia della razza umana. Certo, questa è un'affermazione forte, ma sono pronta a dimostrarla. Avete la prova dell'ingiustizia politica. Non appena pronunciai la parola ingiustizia, un addetto al servizio d'ordine lanciò un urlo di avvertimento. Ci fu uno strepito di piedi. Un nutrito corpo di polizia fece irruzione nella sala e salì di corsa sul palco brandendo i manganelli. Guidati dai detective di Scotland Yard, i poliziotti spuntavano da tutte le parti, ma quando i primi agenti provarono a impadronirsi del palco, furono raggiunti da una raffica di vasi, tavoli, sedie e altre munizioni. Afferrarono il parapetto del palco con l'intenzione di buttarlo giù, ma si accorsero che dietro le decorazioni era nascosto del filo spinato. Questo portò a una pausa momentanea. Intanto, altre unità dell'armata di invasori arrivavano da tutte le direzioni. Il nostro servizio d'ordine e gli spettatori respinsero vigorosamente l'attacco, brandendo mazze, bacchette, aste, tavole e tutto quello che riuscivano ad agguantare, mentre i poliziotti picchiavano a destra e a manca con i loro manganelli in un crescendo di violenza. Ad ogni lato si vedevano uomini e donne coi volti insanguinati e qualcuno urlò chiedendo se ci fossero dei medici. Nel pieno della battaglia si udirono rimbombare diversi colpi di pistola e la donna che le aveva sparati, devo comunque precisare che l'arma era caricata a salve, fu capace da sola di terrorizzare e tenere a distanza un intero corpo di polizia. Io ero stata circondata dalle nostre guardie del corpo, che mi spinsero di fretta verso le scale del palco. La polizia però ci raggiunse e, malgrado la resistenza delle guardie del corpo, riuscì ad afferrarmi e a spingermi giù per gli stretti gradini fino all'uscita sul retro della sala. Lì c'era un taxi che aspettava, fui premuta dentro con violenza e gettata sul pavimento. I sedili erano occupati da tutti gli agenti che ci potevano entrare. La riunione fu abbandonata in uno stato di estremo disordine e l'agente di Glasgow, che era presente, espresse il proprio sdegno contro il comportamento della polizia che, agendo su ordine del governo, aveva infamato il nome della città. La signora Drummond, il nostro generale, che era sul palco, prese in mano la situazione e fece un discorso di incitamento, in cui esortò il pubblico a far sentire con forza al governo la propria indignazione. Fui trattenuta per la notte in una cella del distretto di polizia di Glasgow e il mattino dopo fui portata, detenuta in regime di sciopero della fame e della sete, a Holloway, dove rimasi per 5 storici giorni. Questa era la settima volta che il governo provava a farmi scontare la pena di 3 anni ai lavori forzati per l'accusa di cospirazione legata allo scoppio nella residenza di campagna del signor Lloyd George. Negli 11 mesi e mezzo da quando avevo ricevuto la condanna, avevo trascorso in prigione appena 30 giorni. Il 14 marzo fui nuovamente rilasciata, ancora in grave sofferenza fisica non solo per gli effetti dello sciopero della fame e della sete, ma anche per le contusioni riportate al momento del mio brutale arresto a Glasgow. La risposta a quell'arresto era stata rapida e forte. A Bristol, scenario di scontri e disordini, quando erano gli uomini a combattere per il diritto di voto, fu incendiato un grande deposito di legname. In Scozia un palazzo fu distrutto dalle fiamme. Una protesta più morbida fu effettuata con un attacco alla casa del segretario di Stato, nel corso del quale furono sfasciate 18 finestre. Il più grande e stupefacente gesto di protesta di questa fase fu l'assalto al dipinto Venere Cupido della National Gallery. Mary Richardson, la giovane donna che mise in pratica questa protesta, è in possesso di una sensibilità artistica molto raffinata e nulla, se non il più urgente senso del dovere, la spinse a compiere questo suo gesto. La signorina Richardson, nell'affrontare il processo a suo carico, fece un toccante discorso davanti alla corte, dichiarando che il suo era stato un atto premeditato e che lo aveva ponderato a lungo prima di compierlo. Aggiunse poi: "Sono stata una studentessa d'arte e penso di avere a cuore l'arte più di qualsiasi altra persona presente al museo nel momento in cui ho compiuto il mio gesto di protesta. Ma ho a cuore la giustizia ancora più dell'arte e credo fermamente che quando una nazione chiude gli occhi davanti alla giustizia e preferisce avere le donne che combattono contro l'ingiustizia, che sono maltrattate, torturate, azioni come la mia diventano comprensibili, non dico giustificabili, ma comprensibili sì. Vorrei specificare che l'oltraggio che il governo ha compiuto ai danni della signora Pankhurst è il più estremo degli oltraggi. È omicidio, lento omicidio, omicidio premeditato. È così che la vedo io. Come possiate esporre le donne al ridicolo e al dileggio e metterle in prigione e non dire niente al governo che uccide le persone? Questo non riesco proprio a capirlo. Il fatto è che questa nazione è morta o è addormentata. Secondo me esiste la prova evidente che la nazione è morta perché le donne hanno bussato invano alla porta degli amministratori, degli arcivescovi e persino del re in persona. Il governo ci ha chiuso tutte le porte in faccia. E ricordate, uno stato di morte in una nazione, come negli individui, porta soltanto a una cosa, alla dissoluzione. Non esito a dire che se gli uomini di questo paese non mettono giù le mani all'ultimo minuto e salvano la signora Pankhurst nel giro di pochi anni, si sbracceranno inutilmente per salvare l'impero. Nel condannare la signorina Richardson a 6 mesi di carcere, il magistrato le disse con rammarico che se avesse rotto una finestra invece di un tesoro artistico, avrebbe dato al massimo 18 mesi, il che la dice lunga, credo, sulle bizzarre anomalie della legge inglese. Poche settimane dopo, un altro famoso dipinto e ritratto di Sargent di Henry James fu colpito da una suffragetta e, come la signorina Richardson, dovette subire la farsa del processo e una pena detentiva che non avrebbe scontato. Giunti a questo punto, praticamente tutte le gallerie d'arte e gli altri musei pubblici erano stati chiusi. Le suffragette erano riuscite a rendere l'Inghilterra poco attraente per i turisti e di conseguenza improduttiva sul piano degli affari. Come ci aspettavamo, la reazione contro il governo cominciò a manifestarsi. Ogni giorno sulla stampa si sottoponevano delle questioni alla Camera dei Comuni riguardo alla responsabilità del governo verso le azioni delle suffragette. La gente iniziò a dare quella responsabilità a chi di dovere, al governo piuttosto che a noi. In particolare, la gente cominciò a mettere a confronto il trattamento riservato alle donne ribelli con quello accordato agli uomini ribelli dell'Ulster. Per un anno intero il governo aveva attentato al diritto delle donne di parlare liberamente, impedendo alla WSPU di riunirsi praticamente a Hyde Park. La giustificazione che fu data per questo atteggiamento fu che noi stavamo promuovendo e difendendo una militanza politica. Ma il governo permetteva ai militanti dell'Ulster di promuovere il loro attivismo politico a Hyde Park. E quindi noi decidemmo che, con o senza il permesso del governo, avremmo tenuto un'assemblea sul suffragio a Hyde Park, lo stesso giorno dell'Unione dell'Ulster. General Drummond fu annunciata come oratrice principale dell'assemblea e quando venne il giorno i militanti dell'Ulster e le nostre militanti si radunarono a Hyde Park. Ai militanti maschi fu consentito di parlare per giustificare il loro spargimento di sangue. General Drummond fu arrestata dopo aver pronunciato solo poche parole. Un'altra prova del fatto che il governo aveva una legge indulgente per i militanti maschi e una legge persecutoria per le militanti femmine fu presentata dal caso della signorina Dorothy Evans, la nostra organizzatrice dell'Ulster. Lei e un'altra suffragetta, la signorina Maud Muir, furono arrestate a Belfast con l'accusa di possesso di materiale esplosivo. Era risaputo che in molte case di Belfast erano nascosti mucchi di armi da fuoco e munizioni a uso dei ribelli contro l'Home Rule. Ma nessuna di queste case fu perquisita dalla polizia. Le autorità riservavano le loro energie ai quartieri generali delle donne militanti. Ovvio che le due detenute suffragiste davanti alla corte si rifiutassero di essere processate se il governo non avesse fatto altrettanto anche con i ribelli maschi. Per tutta la durata del procedimento, le detenute misero in atto tali e tante azioni di disturbo che il processo non si poté effettivamente svolgere. Quando fu convocato il caso, la signorina Evans si alzò e protestò con veemenza dicendo: «Io nego completamente la vostra giurisdizione, finché sul banco degli imputati di fianco a noi non saranno presenti gli uomini che voi sapete bene essere leader del movimento militante dell'Ulster». La signorina Muir si unì alla signorina Evans nella protesta ed entrambe le donne furono espulse dall'aula. Dopo una pausa di un'ora il processo riprese, ma le donne ricominciarono a parlare e la causa fu portata a termine di fretta in un indescrivibile chiasso e trambusto. Le donne furono mandate in prigione in custodia preventiva e dopo 4 giorni di sciopero della fame e della sete furono rimesse in libertà senza condizionale. L'effetto di questo caso fu un grave inasprimento della militanza, con 3 incendi che distrussero altrettante case di Belfast nel giro di pochi giorni. Venivano appiccati roghi quasi quotidianamente in tutta l'Inghilterra e un episodio assai rilevante fu la distruzione del Bath Hotel di Felix Stowe, valutata nell'ordine dei 35.000 sterline. Le donne responsabili di questa azione furono in seguito arrestate e mentre il loro processo tardava a svolgersi, sebbene non ancora giudicate colpevoli, furono torturate con l'alimentazione forzata per diversi mesi. Questo accadeva ad aprile, poche settimane prima del giorno fissato per portare la nostra delegazione davanti al re. Io avevo fissato al 21 maggio la data dell'invio della delegazione, pure se il re, tramite i suoi ministri, si era rifiutato di riceverci. Rispondendo a questo rifiuto, avevo scritto direttamente al sovrano che noi non riconoscevamo i diritti costituzionali dei ministri, in quanto non erano stati eletti dalle donne e quindi non avevano autorità su di loro, non potevano intromettersi tra di noi e il trono e non potevano impedirci di avere un colloquio con Sua Maestà. Inoltre, nella missiva dichiarai che alla data annunciata ci saremmo presentate ai cancelli di Buckingham Palace, pretendendo di essere ricevute. Dopo aver spedito questa lettera, mi sentii inquieta e insicura per quello che il governo, attraverso il suo dipartimento di polizia, avrebbe potuto escogitare. Non avevo il permesso di fare apparizioni pubbliche, ma tenni comunque dei discorsi, davanti a grandi folle dai balconi delle case dove andavo a rifugiarmi. Erano ogni volta raduni ben pubblicizzati e ogni volta la polizia, mischiandosi al pubblico, faceva mille tentativi di arrestarmi. Strategicamente, con l'aiuto del nostro servizio d'ordine, riuscivo sempre a portare a termine il mio discorso e subito dopo a dileguarmi. Tutte queste occasioni furono segnate dalla violenta posizione della polizia e dallo splendido coraggio e dalla strenua resistenza delle nostre donne. La delegazione al re veniva ovviamente considerata dal governo come una buona occasione per arrestarmi, e quando nel giorno prefissato io guidai la delegazione delle donne fino ai cancelli di Buckingham Palace, un esercito di svariate migliaia di poliziotti fu messo all'opera contro di noi. La condotta della polizia indicò chiaramente che aveva ricevuto l'ordine di ripetere la tattica del Black Friday che ho descritto in un precedente capitolo. Infatti, in questa giornata si distinsero la violenza, la brutalità e gli insulti del Black Friday davanti ai cancelli del re d'Inghilterra. Io non soffrii personalmente quanto altre donne, perché ero avanzata verso il palazzo senza essere notata dalla polizia che mi cercava in punti più lontani. Non appena arrivai davanti ai cancelli, fui riconosciuta da un ispettore che mi afferrò all'istante e mi condusse a Holloway. Prima che la delegazione si mettesse in marcia, avevo fatto un discorso avvisando le donne di ciò che sarebbe successo e il mio messaggio finale era stato: qualsiasi cosa accada, non indietreggiate. Non indietreggiarono e, malgrado tutte le violenze che dovettero subire, andarono avanti risolute fin tanto che erano libere a non abbandonare l'obiettivo di raggiungere il palazzo. Furono eseguiti molti arresti e molte delle arrestate furono portate in carcere. Anche se per la maggior parte di loro si trattava della prima carcerazione, queste coraggiose donne adottarono lo sciopero della fame e passarono 7-8 giorni senza cibo e acqua, prive di essere rimesse in libertà, deboli e malate, come si poteva prevedere.